Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Se dovessimo vincere la Champions, potremmo pensare di proseguire per un anno per cercare di fare, partecipare, cercare di vincere a altre due competizioni che ne conseguono per il doppio Champions, no? E quindi questo sarebbe era il discorso col quale ci lasciamo e che ogni volta rinverdiamo, no? Visto che quest'anno sarebbe stato troppo facile, è troppo bello, è troppo facile vincerla. Saremo lì aggrappati anche l'ultimo anno a vedere cosa accadrà. Dai. Avevamo promesso, credo, nelle nostre precedenti occasioni che avremmo consegnato all'allenatore Vincenzo Montella più o meno i due terzi della rosa pronti per l'inizio. Io penso che siamo sulla buona strada, sia come numeri sia come qualità. Io ho rinnovato, era il mio sogno rinnovare con questa maglia, con la maglia del Napoli. E spero che nei prossimi 5 anni farò ancora meglio insieme ai miei compagni, sperando di vincere qualcosa di importante con la maglia del Napoli. E lo scudetto l'obiettivo? Vabbè, sicuramente quest'anno abbiamo fatto qualche passo falso, però sappiamo che ce la possiamo giocare e l'anno prossimo ce la metteremo tutti. Carissimi, oggi parliamo di grandi campioni passati, presenti o progetti di campioni. 800 24 00 24, chiamatevi, prenotate, intervenite fino alle 15:30 oggi con Giorgio De Luca, Edoardo Lavezzari, Gianmarco Ferronato. Grande spazio a voi, se telefonate vi aspetto. 800 24 00 24, oppure 349 238 6666, sms, whatsapp, oppure ci potete vedere, non solo sentire, sul sito radio24.it, sulla nostra pagina YouTube, sulle nostre pagine Facebook, quella di Radio 24 e quella di Tutti Convocati trattino Radio 24, che dovete andare a cercare per seguire. Poi leggeremo anche i messaggi che mandate. Allora, il menù di oggi, il giorno di Donnarumma, tra l'altro vi faremo sentire poi Fassone questa mattina a Mix 24 da Minoli. Donnarumma che deve rispondere al Milan sul rinnovo, e secondo me hanno ragione i tifosi del Milan che si sono stufati di questo tira e molla, e comunque vada a finire, Donnarumma ci ha perso in immagine. Poi secondo campione, Insigne, dargli o no la 10 di Maradona, che cosa ne pensate? E poi Buffon, che come al solito quando parla fa discutere e divide. Alessandro Alciato, ciao. Ciao, buongiorno. Come al solito fa discutere e divide. Noi sentiremo un paio di passaggi, ma ce ne sarebbero mille dell'intervista che gli hai fatto ieri per Sky, no? Sì, hai ragione quando dici che quando Buffon parla fa discutere, è vero, però si fa ascoltare perché dà sempre dei titoli, uno di quei giocatori che danno sempre titoli, lui, Daniele De Rossi, mi vengono in mente i primi due parlando della nazionale che ha appena finito di giocare, quindi sì, magari farà discutere, però è sempre bello intervistarlo. Allora, io vorrei sapere cosa ne pensi tu, che l'hai guardato dritto negli occhi, sulla storia del ritiro. Io vi do la mia interpretazione. Ieri Buffon, lo abbiamo sentito, ha detto al 99,99% mi ritiro a fine anno. Certo, c'è quel discorso che ho fatto con il presidente Agnelli: se dovessimo vincere la Champions, poi ci sono un paio di finali da fare, magari vado avanti. Oh, secondo me Buffon ha fatto un'uscita da grande, a differenza ad esempio di Del Piero e Totti, ha annunciato lui che chiude a fine stagione, non si fa dettare i tempi dagli altri, e poi la Champions vediamo. E poi si è messo d'accordo anche con Andrea Agnelli, ricordate i tempi, invece fu Agnelli a un'assemblea dei social dire a fine anno Del Piero se ne andrà, lo annuncia lui mentre Buffon si è messo d'accordo prima. Beh, penso davvero che lui abbia proprio programmato il futuro, che quel 99,9% nella sua testa sia davvero un 99,9% e non un 100%, perché dovesse accadere quello che ha detto ieri, dovessimo vincere la Champions, io continuerei, ed è tutto molto lineare, perché poi ci sarebbe la finale di Supercoppa Europea, ci sarebbe il Mondiale per Club, quindi lui ha svelato un accordo che fino a ieri era segreto, un accordo col presidente Andrea Agnelli che oggi non è più segreto. Sì, ma che vuol dire che ci sarebbero quattro partite fondamentalmente, eh? Vuol dire che ci sarebbero, sì, quattro partite. Una ad agosto e tre, due o tre a dicembre. No, però a quel punto andrebbe avanti. Andrebbe avanti, ma io credo non sarebbe nemmeno un problema per la Juventus gestirlo con Szczęsny. Non sarebbero però 3-4 partite, sarebbero molte, certo. Di più, certo, non sarebbero tutte quelle che lui gioca di solito, quelle che ci ha abituato a vedere, perché a quel punto Szczęsny, a cui è stato detto che dal 2018 sarà il titolare della Juventus, comunque dovrà avere dello spazio, perché anche in questo senso la Juventus con Szczęsny è stata chiaro. Fra l'altro Buffon mi sembra uno dei primi tifosi dell'acquisto di Szczęsny, perché ha detto che assolutamente Szczęsny ha fatto la scelta migliore, ma anche la Juventus ha fatto la scelta migliore prendendo lui. Guarda, parla già da dirigente della Juve e io credo che un'uscita soft sia anche il modo migliore per poi rientrare dalla porta principale. Però ti voglio far sentire un altro pezzettino che secondo me ha fatto discutere e farà discutere, che è quello su chi ha esultato per la sconfitta della Juventus a Cardiff. È un qualcosa che mi fa capire quanto miserabile possa essere l'uomo, perché in questo caso sì, è proprio miseria umana, e sono veramente felice di non far parte di quella schiera, ecco, quello è il mio più grande orgoglio, perché poi quando li vedo e li incontro mi sento troppo più forte di loro, questa è la verità. Io non capisco perché si accanisca su questa cosa, Alessandro, devo dire la verità, capisco che sia rimasta la delusione, capisco che possa non piacere, però è uno sport, il calcio è fatto così, i tifosi sono fatti apposta per godere anche delle sconfitte altrui. Sì, è fatto così, ma io non sono d'accordo invece, sono d'accordo con Buffon in questo caso, ma in generale con quelli che si arrabbiano quando vedono dei colleghi esultare per la propria sconfitta, perché in realtà lui ce l'ha anche con i tifosi di altre squadre, e quello ci sta, sono d'accordo con te, ma quando invece dei tuoi colleghi aspettano solo il momento che tu perda, che magari sono colleghi che non sono riusciti a vincere. Facciamo i due nomi, uno Nainggolan, l'altro Reina, ad esempio, mi viene in mente. Sì, a me è venuto durante l'intervista è venuto in mente Nainggolan, perché è l'ultimo in ordine di tempo, però credo ce ne siano, sì, qualcuno ce ne siano c'è di stato, più. Qualcuno c'è sì, stato. Poi lui ha parlato proprio di social, di gente che continua ad attaccare via social. Mi è venuto in mente Nainggolan, però lui nomi, ti ripeto, non ne ha fatti. Non so, tu fai un'intervista esclusiva e un tuo collega prendi un buco, come si dice in gergo, e il tuo collega va a dire a tutti ma quello non ha mai le notizie. Trasporta questo discorso in ambito calcistico, vedi che secondo me ti dà un po' fastidio, darebbe un po' fastidio anche a te. Sì, però hai ragione, però ti leggo un messaggio che è arrivato adesso, 349-238-6666, alla fine fa la figura di quello che gli brucia. Di brutto. È certo che gli brucia di brutto, ci mancherebbe altro, nel senso che gli brucia perché magari non se lo aspettava dai colleghi, se lo aspettava dai tifosi delle altre squadre, e ti dico che lo ripeto, secondo me ci sta che i tifosi di altre squadre magari esultino per la sconfitta, non è eticamente corretto, magari non è bellissimo, magari non è segno di cultura sportiva, però te lo ripeto, ci può stare. È certo che gli brucia, perché è gente che vede tante volte durante l'anno, gente con cui magari parla quando si incontrano, si ferma a chiacchierare, poi lo tratta così, e sì, la situazione gli fa bruciare, brucierebbe anche a me. Ti sei fatto un'idea su che cosa ha scelto di fare per il futuro? Buffon? Sì. Allora, pochi giorni fa ci aveva raccontato di questa idea, non gli dispiacerebbe, no, a grandi linee, l'idea del commissario tecnico, però ieri un po' l'ha smontata questa, sì. Sì, secondo me è un'idea che è lì, che vaga, che gli gira per la testa, poi gli esce di mente, poi gli ritorna nel cervello, mentre mi sembra di capire che lui voglia intraprendere al momento una carriera dirigenziale. Questo è quello che pensa al momento, poi tutto può cambiare, però lo vedrai bene, credo che lui si veda bene come dirigente sportivo di alto livello. Grazie Alessandro. Grazie a voi. Grazie Alessandro Alciato. Insomma, il tema è qui, 800 24 00 24. C'è il traffico, torniamo subito. Convocati. Tutti convocati. Ma io mi sento, tra virgolette, odiato è un brutto termine, però probabilmente anche quello più calzante, no? Al netto di ogni retorica e di ogni perbenismo. Credo che probabilmente quando sono un avversario temuto e odiato, quello sicuramente, però penso di essere una persona rispettata e questa è la cosa alla quale tengo di più. Questo ancora Buffon, 800 24 00 24. Pierluigi Pardo, ciao. Come va? Bene, bene. Allora, intanto ti porto i saluti di Mauro da Hong Kong, di Vincenzo dalla Corea del Sud e di un amico che si chiama Leftieris da Rodi, dall'isola di Rodi. Ma adesso perché vai avuto quel fenomeno così? No, ma è così. Ci sarà pure un Cesare da... Ci stanno seguendo sulle pagine Facebook, Nando scrivono. D'Anzio, sì, ci sono. Guarda, mi attira molto, Pier, il discorso di Buffon, che quando parla, ha ragione Alessandro Alciato, dà sempre il titolo, divide... fa discutere. Io non so che idea ti sei fatto tu, ad esempio, sulla questione del ritiro. Perché oggi, e lo diciamo, c'è anche chi ha scritto sui giornali, è stato colpito dalla sindrome di Totti. Con quella porticina che si tiene aperta significa che ci sta ripensando e magari poi fra un anno siamo qui a parlare di lui come di Totti che non voleva smettere. Ma assolutamente, io un po' ne più giovane di Totti ed è ancora titolare inamovibile di una squadra che vince lo scudetto e va in finale di Champions League, in un ruolo oltretutto non è che sono più bravo di Totti, è il ruolo che chiaramente è un ruolo che garantisce una longevità, che dà la possibilità a giocatori più anziani di continuare. Ad esempio Zoff è assolutamente, Pat Jennings, Shilton, cioè il portiere ha dei margini proprio fisici diversi rispetto alla zona di movimento. Sì, lui è un portiere, quindi... Totti stava parlando di un attaccante, quindi questo cambia. Pier, recuperiamo il contatto telefonico. Saluto Fulvio Colovati, ciao Fulvio. Ciao, buongiorno a te, buongiorno Pierluigi, buongiorno a voi. Sempre difficile scegliere il momento del ritiro, Ma io l'ho scelto, anche se erano altri tempi. Sono andato in ritiro a luglio, consapevole che a fine campionato avrei smesso, dal 1993, però... erano altri tempi. Io insomma mi immedesimo in Buffon, per quale motivo deve smettere? Cioè, perché il tempo passa per tutti, Fulvio, no? Sì, ho capito, però se c'è una proprietà, allora per andare avanti bisogna, chiaramente devi essere in pace con te stesso e devi avere soprattutto un fisico al di fuori da ogni logica, al di fuori del normale, ma nel momento in cui c'è una società che è d'accordo con te, il problema è quello. Se è la società che ti ritiene, che ormai, come nel caso di Totti, parliamoci chiaro, Totti l'hanno fatto smettere, fosse stato per lui sarebbe andato avanti ancora. Sì, però Totti di fatto non giocava più, l'ultimo anno praticamente non ha giocato. La Roma non voleva. Ciao Pietro. Nel caso Buffon, se Buffon... ma poi la carriera si è allungata, ragazzi, si è allungata, portiere... ha dei riflessi, sta fermo. Io ho avuto modo di giocare anche con Zoff, che aveva 40 anni allora, adesso ci si allena probabilmente meglio, ci sono attrezzi migliori, ci si alimenta meglio, per cui per me Buffon può giocare anche fino a 43 anni, non vedo difficoltà. Sì, c'è chi quest'anno non gli ha risparmiato le critiche, eh? Anche a Cardiff, vabbè, sul gol di Casemiro. No, però voglio dire, mi ha ricordato le critiche a Zoff, un famoso gol preso al Mondiale 78. Allora anche Donnarumma, che ne ha 18, sì, di anni, gli errori li fa. Parliamoci chiaro, nelle ultime 4-5 partite qualcosina gli è stato perdonato o no? Sì, però c'è un punto, secondo me, che è giusto da sottolineare, cioè che qualsiasi giocatore che decide legittimamente, facendo un regalo a se stesso perché ancora voglia di giocare, facendo un regalo a noi che non vorremmo mai veder smettere, poi in cuor nostro Totti, Buffon, Maldini, quindi è chiaro che un rischio se lo prende. Totti sicuramente dal punto di vista della perfezione dell'uscita di scena, dal punto di vista di marketing, dal punto di vista mediatico, se avesse smesso un anno fa dopo aver portato con le sue magie la Roma in Champions League, avrebbe fatto una figura mediaticamente migliore, ma chi se ne frega, ecco. Cioè, il punto vero è che poi uno, ma grazie a Dio, continua a fare quello che ha voglia di fare. È ovvio che Buffon, se giocherà altri 2-3 anni, 4 anni, rischierà inevitabilmente, fisiologicamente, di fare qualche errore in più, e quindi magari nella testa di qualcuno di appannare un'immagine che invece è meravigliosa. Però se ha voglia di farlo, va ben venga. Anzi, io ho trovato questa cosa qui, questa cosa di Totti, l'ho trovata, e possibilmente anche di Buffon, l'ho trovata molto, molto bella, perché è proprio il segno della grandezza, la libertà di uno che se ne frega di quello che pensano gli altri, di quelli, certo, che ti dicono. Quante volte abbiamo detto che pena vedere Totti in panchina che gioca 300 minuti. Se a lui va bene così, va bene così. Volevo lanciare un altro tema. Intanto ci salutano carissimo Piera anche dall'Arizona, Grand Canyon, dove sono le 5:23. Hai capito? Ludovico, Ludovico, lo salutiamo. È l'ora del tempo. Assolutamente, no, è alle 5:23 credo del mattino, carissimo. Quindi per svegliarci. L'altro tema è questo, che ieri ha scatenato i nostri amici da casa, e cioè la sola idea che Buffon potrebbe fare poi il CT della nazionale non è piaciuta a tantissimi. Ci stanno inondando di messaggi: Buffon antisportivo, il gol di Muntari, alcune scivolate fatte inizio carriera. Oggi però in redazione, e vorrei sapere anche da Fulvio Collovati cosa ne pensa, noi abbiamo fatto due conti e ci siamo detti: perché solo in Italia non si può? Platini ha smesso e è diventato CT della Francia. Beckenbauer e Klinsmann hanno smesso e sono diventati CT della Germania. Rijkaard e Van Basten hanno smesso, non hanno fatto gavette e sono diventati CT dell'Olanda. Shevchenko ha smesso ed è CT dell'Ucraina. Poi da noi sembra che sia un passaggio impossibile, Fulvio. Secondo te sarebbe un profilo adatto? Ma perché no? Ma non, guarda che noi, cioè, parliamoci chiaro, tu parli con uno che ha fatto parte di una generazione che ha vinto il Mondiale 82, che è stata abbastanza invisa, vogliamo dirlo? E la verità è questa. Poi sì, è cioè, alcuni di noi, no, beh, io ho scelto un'altra strada, per cui non faccio parte dell'ambiente del calcio, però quelli che sono stati nell'ambiente del calcio anche sono stati particolarmente amati. Poi i motivi sono da ricercare in tante cose, però a parte Tardelli, che ha fatto l'allenatore dell'Under 21, Gentile dell'Under 21, ma Gentile poi hai visto anche tu, cioè è stato silurato a malo modo, per cui l'idea di Buffon, ma perché no? Cioè Zoff ha finito di alzare col francobollo la Coppa del Mondo così nel 1982, pochi anni dopo, senza patentino, senza cosa, è diventato allenatore della Juventus, ha fatto allenatore della Nazionale, ed è stato, non ve lo ricordate, criticato perché al Golden Goal uscì, adesso non mi ricordo, criticato. Sì, ce l'aveva Berlusconi con lui, critiche. Parliamoci che, per cui uno che conosce il calcio come Buffon lo può fare benissimo, perché non lo può fare? Perché è un gestore, non deve diventare allenatore, è un gestore di uomini, dello spogliatoio. Buffon è uno che parla, e io sono dalla parte di Buffon, lo dico, nel senso che a me piace il candore certe volte di questo ragazzo, che lo porta a fare magari anche qualche autogol mediatico. Avete citato il discorso di Muntari. Allora, il gol di Muntari, il pallone era dentro di un metro, il Milan, io ero allo stadio a vedere quella partita, fu chiaramente svantaggiato, lo dico senza se e senza ma, è stato un gol molto pesante nella lotta a scudetto, e chi non lo riconosce secondo me sbaglia. Però mi chiedo quanti giocatori nella storia del calcio, di fronte a un episodio del genere, sarebbero andati all'arbitro. Quello che gli viene contestato, Piera, è la dichiarazione fatta dopo, sì. Cioè se anche me ne fossi accorto sarei stato zitto. Ho capito, e invece scusami, che cosa cosa doveva dire. Ma difatti, secondo me, non è stato ipocrita. Non me ne sono proprio accorto. Ma come? È stata di un metro, non me ne sono proprio accorto. Allora, questo, noi vogliamo questo, noi vogliamo questa ipocrisia, vogliamo questo moralismo. Se vogliamo questo moralismo, allora teniamoci quelli che dicono: oh, il pallone era dentro di un metro, ma guarda, avrei giurato che non era dentro. Sì. Ma incredibile, l'hanno visto tutti quel pallone era dentro, uno degli errori più clamorosi della storia del calcio. E ripeto, i milanisti hanno avuto sacrosanta ragione a lamentarsi, perché insomma era entrata di un metro, cioè non c'è da discutere. Però appunto Buffon è questo, Buffon è uno che fa una dichiarazione come quella sulla nazionale in questo momento, quando forse non è l'idea, no? È un momento in cui la Juve sta polarizzando così tanto l'opinione pubblica italiana, per cui c'è chi la ama e c'è chi invece ha tifato Real Madrid con le sciarpe e con i caroselli, e fa una dichiarazione di questo tipo, perché secondo me di fondo è un istintivo, è uno spontaneo, è uno che quando pensa una cosa la dice. E a me questo aspetto piace. Poi sul fatto che possa diventare CT mi sembra presto, cioè di che stiamo parlando. È presto, però è un tema di cui si può discutere. Magari può dar fastidio a Ventura. A me sorprende la reazione degli altri. Abbiamo la borsa, quindi adesso ci dobbiamo fermare. Mi dici solo in 20 secondi, Fulvio, se anche secondo te Donnarumma si è fatto consigliare male, comunque vada a finire la storia del rinnovo. Cioè da luglio comunque vada a finire della storia del rinnovo, lui non sarà più il giovanotto coccolato, ma è cresciuto troppo in fretta. No, sì, è cresciuto troppo in fretta. E allora qui non si tratta di consigliare male, perché guarda che Raiola difficilmente ti consiglia male. Chiaramente fa i suoi interessi, ma fa soprattutto anche gli interessi del giocatore. È chiaro che Donnarumma è combattuto tra rimanere la squadra che l'ha lanciato e tutto, e il sapere che fra 4, 5, 6 anni può guadagnare 15 milioni di euro all'anno. Parliamoci chiaro. Ma cosa che credo potrebbe fare serenamente anche firmando il rinnovo col Milan. Anche se 18 anni, infatti, fra 5 anni infatti, ne ha 23. Ma infatti ormai i contratti non valgono più nulla. I contratti valgono solo per tranquillizzare i calciatori, ma le società sono ricattate ugualmente anche nel momento in cui lo firmi un contratto. Per cui firma questo benedetto contratto, fatti mettere la clausola, quello che vuoi, e poi dopo, poi tra 4-3 anni, 4 anni, 2, 5, 6, deciderai puoi fare quello che vuoi. Grazie Fulvio. Grazie a te, buongiorno a voi. Grazie a Fulvio Collovati, c'è la borsa 800 24 00 24, adesso ripartiamo con voi. Tutti convocati. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Convocati. Allora, rieccoci, partiamo con una notizia di mercato, la batte Sky proprio in questi minuti. La Roma ha preso Héctor Moreno, difensore del PSV, ha pagato 5,7 milioni di euro, 4 anni di contratto. Héctor Moreno, che è un classe 1988, 29 anni, quest'anno 32 presenze e 7 gol nel campionato olandese. 800 24 00 24, Federico. Salve, buongiorno e grazie per la convocazione. Niente, io volevo controbattere al signor Buffon, che ha definito miserabili i tifosi che sono andati contro la Juventus. Io non è che sono andato contro, io ho letteralmente goduto quando la Juve ha perso 4-1 con Real Madrid. Però dato che siamo in tema di tifo e che lo sport è bello anche per questo, se non ci fosse il tifo non penso che ci sarebbe anche lo stipendio del signor Buffon, che guadagna sicuramente più di me. Credo ce l'avesse più con i colleghi, come ci ha spiegato Alessandro Alciato. Lo spero, perché è stata comunque una caduta di stile prendersela, perché gli altri tifosi godono delle disgrazie altrui. Quindi cioè io sono comunque un tifoso, però rimane sempre nella goliardia. È il bello anche dello sport, e anche sì. C'è chi se l'è presa per i festeggiamenti a Napoli con i fuochi d'artificio. Però in questo, scusate, allora, il diritto di gufaggio è, mi pare l'abbiamo sancito dalla tante Costituzione, volte, no? È sì. Sancito dalla Costituzione. In Spagna, vabbè, insomma, non è un paese calcisticamente piccolo, ci sono i quotidiani in Barcellona che titolano Forza Juve prima della finale contro il Real, quindi che il calcio viva di questa, io sono d'accordo con questo, con l'ascoltatore, anche perché poi, come dicevo mille volte, al cuore non si comanda, quindi cioè, se uno comunque gli sta sulle scatole la Juve, l'Inter o il Milan e queste giocano in Coppa, non è che gli dici guarda devi fare quello ti fa, quello fa ciò che il cuore gli dice di fare, quindi va benissimo. Il passaggio all'intervista di Buffon in effetti era un po' scivoloso perché c'era questo concetto, è un discorso di parole, Buffon essenzialmente dice, se non ho capito male, sono felice di stare da questa parte qui, sì, cioè di non essere come loro, l'aveva detto, no, ma anche dice di essere però, dalla parte di quelli che non godono delle disgrazie degli altri. Poi c'è tutti che ricordano il famoso striscione sul 5 maggio, ma l'abbiamo detto ieri, c'entra nulla. Lì stava festeggiando uno scudetto. Quindi. Era scudetto vinto dalla Juve. Ecco, poi vinto anche con la sconfitta dell'Inter, però. Sì, l'ho capito, però è uno scudetto vinto dalla Juve. Cioè, sarebbe come dire che i razziali non possono scrivere l'Ulich 71 perché è offensivo nei confronti della. Cioè, che ha perso. Lì c'è un successo, no, francamente. La roba dello striscione, secondo me, ci sta tutta la vita. Che ci sia il diritto a gufare, questo è indiscutibile. Che a Napoli tante persone, a Roma, a Milano, a Inter, io ero a Milano, per esempio l'ho visto a media, che queste volte l'ho vista a casa, sui due gol ravvicinati del Real Madrid, c'è stata un'esplosione. Sì. Cioè, non so, forse... Ma sì, ma secondo me Buffon dovrebbe evitare di fare la figura di quello che gli brucia tanto. Però probabilmente ha ragione lui. Aspetta che abbiamo... Intanto lo saluto, Luca Antonini. Ciao Luca. Ciao a tutti. Aspetta che c'è Vito che ci aspetta da una vita. Vito da Milano. Vito. Buongiorno a tutti. Ciao. E grazie per avermi convocato. Io farei un copia e incolla delle cose dette da chi mi ha preceduto. Fermo restando che capisco che magari ce l'aveva anche i suoi colleghi, però penso che anche i colleghi, i giocatori stessi sono tifosi di una squadra di calcio, credo, no? Se no il calcio è ridotto meramente a loro che fanno le dichiarazioni, i giornalisti supini che accettano e scrivono tutto quello che dicono e noi poveri babboni paghiamo il biglietto per andare a vedere partite, ne possiamo discutere di niente. Cioè, io non ci scommetterei sul fatto, Pier, che i giocatori siano tifosi e quindi godano. Beh, i giocatori sono legittimamente tifosi delle squadre. Delle squadre per cui, sono per cui professionisti, lavorano, sono professionisti. Ma no, ma questo però non è una, scusate, questa non è una forma di eredità, è la tua vita che ti porta a fare quello. Se tu lavori in una radio e poi dopo qualche anno lavori in un'altra radio con un gruppo di lavoro, con delle persone che lavorano come con te, con dei dirigenti che appunto ti dirigono, è chiaro che tifi per quella che è, tifi per te stesso, ma non è una cosa egoista, tifi per... Altrimenti non saresti non un bravo professionista, ma una brava persona, perché vorrebbe dire che fa avresti le idee un po' confuse. Poi che possono essere alcuni giocatori che rimangono tifosi, cioè Insigne, gli auguro di fare 30 anni a Napoli. È chiaro che se Insigne un giorno andrà al Manchester City, è ovvio, faccio per dirti che lui continuerà a vedersi le partite del Napoli e a tifarlo, no? Tutti se l'anno prossimo va in Canada, è ovvio che comunque non è che non si guarda il derby. Se lo guarda col massimo del tipo possibile e con la sciarpa al collo, questo sicuramente. Sì, però questa cosa di secondo me è anche un po' enfatizzata sul tifo dei calciatori. Insomma, non lo so. Luca Antonini, ciao, ti faccio sentire Fassone questa mattina da Minoli, Mix 24 su Donnarumma, perché poi apriamo questo ragionamento. Io lo spero di cuore. Lo spero di cuore. È un ragazzo fortissimo. Ah, mi sembra una trattativa tosta con Raiola. Sì, corteggiare Donnarumma è come corteggiare una donna bellissima, ma in questo caso c'è qualcun altro di mezzo che sa fare bene il suo mestiere. Spero che tutto finisca bene per il Milan. Allora, nessuno di noi sa come va a finire, no, Pier? Però il tema che io voglio lanciare è questo: comunque vada a finire, anche andasse a finire, come tutti si augurano, con la firma di questo benedetto contratto, io credo che Donnarumma ci abbia perso, si sia fatto consigliare male, cioè comunque vada lui ha perso anche quella protezione di essere il giovane che viene dal vivaio, di essere quello che va protetto, che va sostenuto, è cresciuto troppo in fretta. Io non so cosa pensa Luca Antonini. Ciao Luca. Ciao. Ma sicuramente qualcosa ha perso o perderebbe nel caso in cui arrivasse la firma col Milan, avrebbe perso Donnarumma, nel senso che se finito il campionato avesse messo subito la firma sul contratto, sicuramente avrebbe avuto la fascia, sarebbe stato l'idolo incontrastato dei tifosi. Invece questa tiritera sicuramente ha alimentato il nervosismo dei tifosi, la rabbia nei confronti di Donnarumma e di Raiola, e sicuramente per Gigio questo non fa bene a un ragazzo di 18 anni che ha tutta una carriera davanti, e se deve iniziare la prossima stagione con Mugugni da parte dei tifosi ha firmato solo per i soldi, non parte sicuramente col piede giusto. Io credo, Pier, che fosse una riflessione da fare prima da parte di chi lo gestisce. Sì, io credo, non perché voglio essere buono nei confronti di Donnarumma, che non sia facile per un ragazzo di 18 anni che si trova nelle mani del procuratore, diciamo, più aggressivo, più quello che gioca più all'attacco, il più attaccante fra i procuratori, e che però effettivamente ha ottenuto dei risultati straordinari con i suoi assistiti. Non sia facilissimo dettare la linea al 100%, quindi dirgli di no. Però credo che si sia arrivati già da un po' a un punto in cui Donnarumma, la sua famiglia, dovrebbero, secondo me, dire a Raiola di fare una scelta che mi sembra di assoluto buon senso, cioè firmare oltretutto cifre importanti per il Milan. E poi vedere dopo cosa succede, che tanto il tempo c'è. Vi leggo un paio di messaggi, poi c'è il traffico, poi andiamo avanti. Marco che ci scrive: se anche dovesse rimanere al Milan, nessun tifoso gli farà più passare inosservate le papere come quelle con Roma e Pescara. Un altro che invece dice: i veri tifosi del Milan amano Donnarumma, anche se dovesse andare via, basta che non vada alla Juve, che poi credo sia un tema non più d'attualità. 800 24 00 24, restano con noi Luca Antonini per Luigi Pardo, un minuto perché c'è il traffico e torniamo. I love this game. Tutti convocati. Convocati. Carissimo Luca Antonini, ti leggo un po' di messaggi che stanno arrivando. Se il Milan fosse una squadra seria, prenderebbe Donnarumma per le orecchie e lo riporterebbe a giocare nella primavera. E poi c'è chi ci accusa di essere ipocriti perché Donnarumma ha la possibilità di guadagnare 15 milioni all'anno e andare in un super club, e dunque perché dovrebbe restare al Milan. E poi c'è chi ci chiede di non strumentalizzare il cuore rossonero di Donnarumma, c'è chi ricorda che ha baciato la maglia a Torino dopo il finale un po' tumultuoso di quello Juventus-Milan. Io credo che tutto questo in realtà, e lo ripeto, non abbia fatto bene a lui prima di tutto, perché a 18 anni puoi anche firmare e andare a prendere i 15 milioni fra 2 anni, 3 anni, 4 anni, Luca, e fare la scelta di quello che resta a crescere in un luogo dove è protetto. Io ti dico la verità, io fossi stato Gigio, poi ognuno ha la sua idea e sicuramente avrà i suoi pensieri, cosa io avrei firmato immediatamente finito il campionato, perché comunque il progetto è veramente ambizioso e si vede dagli acquisti che sta facendo il Milan. Il progetto Milan sarebbe ruotato attorno a lui, alla sua immagine, e quindi a 18 anni partire già con un grande club ai tuoi piedi, come fai? Devi firmare subito. Però se non l'ha fatto, evidentemente è perché sta aspettando delle garanzie, non so di che tipo, e evidentemente perché Raiola vuole tutelare al 2000% il suo giocatore. Però se stesso, diciamolo così, tra le righe. Nel frattempo, il Milan ha fatto un mercato pazzesco, cioè il vero paradosso di questa situazione qui è che 20 giorni fa, un mese fa, Donnarumma poteva avere i legittimi dubbi, premesso che poi Donnarumma fa quello che gli pare, se ha ragione l'ascoltatore, può andare a guadagnare 15 milioni, anzi io l'auguro da un certo punto di vista, non è che possiamo decidere per i soldi degli altri. Detto questo, 20 giorni fa o un mese fa Donnarumma poteva avere dei legittimi fondati sospetti sul fatto che il progetto del Milan non fosse il massimo. Oggi, dopo questo inizio del mercato, mi sembra che questi dubbi stiano svanendo di giorno in giorno, quindi il Milan è un progetto, al di là del fatto di quello che dico sempre, cioè che un club come il Milan, con il brand che ha, con il nome che ha, prima o dopo torna a essere protagonista, non c'è dubbio, proprio è scritto nella logica delle cose, il Milan, l'Inter, la Juve saranno società destinate nel calcio moderno a fare cose importanti. E poi comunque adesso stanno arrivando anche i soldi, stanno arrivando progetti di un certo tipo, quindi secondo me oggi i dubbi non ci sono più. Ti piace Luca il Milan, eh? Ti piace questo Milan che sta nascendo? Sì, no, no, beh, cavolo, ho fatto degli acquisti incredibili, una campagna acquisti che è da tanti anni che non si vedeva, e hanno preso giocatori mirati in determinati ruoli, nei ruoli che poi erano fondamentali per il Milan. Ma quello che penso io, volevo dire a Pier, secondo te un dirigente come Fassone Mirabelli già un mese fa non sapevano gli acquisti che avrebbero fatto? Cioè, secondo me questo tipo di progetto a Donnarumma era stato già spiegato e fatto vedere cosa avrebbero fatto. Secondo me già un mese fa il Milan sapeva già che acquisti avrebbe fatto nel giro di qualche settimana, quindi se c'è questo tentennamento è perché c'è sotto qualcos'altro che nessuno di noi sa. Sì, o che magari si intuisce, avendo raccontato la parabola di altri giocatori assistiti da Mino Raiola e della natura degli accordi fatti con le società, che poi credo sia il cuore del problema. Poi legittimamente Pier, Luca, ognuno fa quello che vuole. Premeva semplicemente sottolineare che comunque vada a finire questa partita, io credo Donnarumma qualcosa ci abbia perso. E non dal punto di vista economico, ma dal punto di vista dell'immagine e della possibilità di crescere tranquillo e di fare anche gli errori che ha fatto in questa stagione e che sicuramente farà. C'è chi ci ricorda che anche Buffon a 18 anni sbagliava, ma difatti è legittimo che Donnarumma faccia le papere, faccia gli errori, e averlo messo così sotto i riflettori io credo sia stato un errore. Allora ringrazio Luca Antonini, grazie Luca. Grazie a voi. Ci risentiamo presto. Gualtiero da Novara, Gualtiero. Eccomi. Vai. Buona giornata. Per dire qualcosa in merito a Buffon. Buffon è il gol di Muntari, nessuno cita che la palla era dentro di 80 centimetri, ma c'era Vidal che era a fondo campo, che si chiamava fuori dal gioco, e che c'era una operazione di fuori gioco non fischiato, su segnalazione errata del segnaline che si è ripetuto. Un anno dopo non mi dire che stiamo ricostruendo la moviola del gol di Muntari, però Gualtiero, no. Questo per dire che Buffon secondo me non può fare l'allenatore, può solo fare il team manager, perché non ha neanche l'ombra di tutto in quanto a direttore sportiva, ha dei ricorsi che è inutile citarli adesso, rimanendo sempre nell'ambito di un ambiente che conosco benissimo, venendo da altre squadre. Voglio dire che Buffon ha imparato a parlare molto bene. Vabbè, mi pare di aver capito che non ti piace Buffon, che poi è tesi condivisa da tanti altri, secondo me anche con qualche preconcetto. Pierluigi dalla provincia di Roma. Sì, buongiorno. Vai. Grazie della convocazione. Io volevo parlare di Donnarumma, volevo solo sperare che Raiola non rovinasse come ha rovinato Balotelli un gioiello della nazionale, o almeno futura, tutto là. Io volevo anche che magari potesse essere un po' più riconoscente verso la società come hanno fatto altri, tutto là. Sì, io non penso sia un problema di riconoscenza, Pierluigi, e non penso nemmeno che Raiola abbia rovinato Balotelli, a dire la verità. Assolutamente. Io penso che ci sia un'impostazione, ma questo vale secondo me anche per i personaggi dello spettacolo, per chiunque fa un lavoro artistico, in qualche modo il calciatore è un lavoro artistico, cioè il rapporto con la gente deve essere un rapporto di simbiosi, ci vuole fiducia e ci vuole anche uno stile simile. Raiola è un fenomeno, intendiamoci, Raiola è un fenomeno, è chiaro che Raiola è uno che ai suoi assistiti gli fa fare certe volte un po' di surf. E li mette sull'ombra. È anche vero, Pier, che ha avuto tutti i caratterini nervosi, c'è chi ci ricorda, ha avuto anche Ibrahimovic, ha dei giocatori un po' particolari nella gestione. Mi scuso con Claudio da Roma, che riagganciamo dopo il GR delle 15. Noi adesso ci fermiamo. Saluto Pierluigi Pardo, domani. Ciao, Pier. Dopo parliamo anche dell'NBA, del basket, e parliamo della 10 di Maradona per Insigne. Io non so cosa ne pensate. 800 24 00 24, stiamo insieme fino alle 15:30. Siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Quanto dipendiamo dalla tecnologia nel lavoro e nella vita di tutti i giorni? Sono Enrico Pagliarini e ogni settimana 2024 intervisto i protagonisti dell'innovazione tecnologica in Italia e nel mondo. Tutto quello che devi sapere sul fintech, i nuovi sistemi di pagamento, le monete digitali e molto altro. 2024 è il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22, domenica alle 13.30 e in edizione podcast con tutte le interviste in versione integrale. Ascolto Gianluca perché smettiamola con questo pippamentalismo radicale. Perché parla pure dei Roni. Perché non sono un'anima in pena, sono un'anima in piena. Io ascolto Gianluca perché, guarda, sono 3 giorni che provo a chiamare, non me lo ricordo neanche più. Perché la vita è una giostra che va. Perché la libertà d'espressione è bella, ma non ci vivrei. Ascolto Gianluca perché in bicicletta non sono lento, sono diversamente veloce. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Se vuoi stare seduto in panchina a guardare o vuoi entrare in campo? Ricominciamo tutti ai nostri posti! E andiamo! Tutti convocati. Curry, rifle pass and Iguodala finishes. Durant gets away from Porter all the way to the rim. There it is, redemption for Golden State. One of the great playoff runs of all time is complete. The Warriors are NBA champions again. 800 24 00 24, ci siamo, parliamo di pallacanestro, ve l'avevamo promesso. Simone Sandri, ciao. Buon pomeriggio Giovanni. Ci siamo svegliati con la vittoria di Golden State, secondo titolo in 3 anni. Cleveland battuto 129-120 in gara 5, 4-1 della serie. Golden State campione perdendo solo una gara in tutti i playoff e vinte le prime 15 di fila, che rappresenta un record difficilmente battibile. Verrebbe da dire, insomma, nulla di nuovo, no? Nulla di non prevedibile. Sì, assolutamente. Diciamo che è stata una finale abbastanza prevedibile, una post-season abbastanza prevedibile. Le due squadre strafavorite sono arrivate in finale dominando i Cavaliers a est e i Warriors a ovest. E poi la realtà dice che nello scontro diretto non c'è stata grande partita, perché Cleveland aveva avuto bisogno di una performance spaziale dal punto di vista offensivo in gara 4 per battere i Warriors. Ma la realtà dice che questi Warriors sono veramente una spanna superiore a tutti, compresi i Cavaliers. Con Kevin Durant questa squadra è veramente, secondo me, è una delle squadre più forti di sempre nella storia dell'NBA. E in linea teorica, se il management dei Warriors riuscirà a tenere tutti i pezzi insieme tra almeno 2 o 3 stagioni, rischiamo di vedere una NBA dominata dai Warriors per altri anni a venire. Sì, erano condannati a vincere, 2 MVP, 4 star nella rosa, cioè c'era tutto perché finisse così. Assolutamente, consideriamo che la squadra che ha fatto il record di vittoria nella regular season nella storia dell'NBA, 73, l'anno scorso, ha aggiunto il secondo miglior giocatore attuale nell'NBA, che è Kevin Durant. Secondo me il migliore resta sempre LeBron James, ma sicuramente si sono rafforzati in maniera incredibile durante l'off season, e questa è una squadra che veramente non ha punti deboli, perché non è solo una squadra che dal punto di vista offensivo può fare quello che vuole, ha anche una difesa super, ha un gruppo di giocatori molto intelligenti che riescono a essere, nonostante il loro talento individuale spaziale, riescono comunque a essere disciplinati sia in attacco che in difesa. E non è facile, perché l'idea nell'NBA soprattutto di avere una collezione di stelle e comunque riuscire a vincere non è così scontato, per cui bisogna dare credito a tutti, al management di Golden State, all'allenatore, a Steve Kerr, allo staff tecnico e anche ai giocatori che sono riusciti a mettere l'ego sono riusciti a giocare di squadra, anche se comunque parliamo di giocatori che nell'uno contro uno dal punto di vista individuale sono di giocatori straordinari come Kevin Durant, come Klay Thompson, come ovviamente Steph Curry. Sì, poi non è semplice fare squadra. Saluto intanto Marco Crespi. Ciao Marco. Ciao. Marco, non è nemmeno facile giocare con la pressione di dover vincere a tutti i costi sulle spalle, anche perché dall'altra parte c'è un certo LeBron James, c'è comunque una squadra di campioni, quindi c'è anche la possibilità di scivolare, no? Ma io penso che dire che in modo negativo che sia stato prevedibile non mi trova d'accordo, perché penso che sia eccitante vedere giocare Golden State, perché è vero che hanno quattro giocatori di grandissimo livello, ma hanno quattro giocatori di grandissimo livello che non giocano da stelle, ma giocano da grandi giocatori che giocano insieme, con un'identità di gioco che ha abolito quasi il centro, quindi sta rivoluzionando la pallacanestro in NBA e di conseguenza anche in Europa, e soprattutto giocatori che giocano in difesa insieme, perché come ha sottolineato Simone, penso che Golden State è ovvio, grandi attacchi, grandi tiratori, forse i tre tiratori più forti dell'NBA tutti nella stessa squadra, però sicuramente fanno delle cose interessantissime da un punto di vista tecnico, da un punto di vista di collaborazione in difesa, e quindi credo che bellissimo vedere chi hanno vinto i favoriti, perché l'hanno vinto in un modo bello, non scontato, non assolutamente noioso. Sì, Kevin Durant migliore assoluto, direi che siamo d'accordo tutti, no? Assolutamente, penso che lui aveva pressione, perché tutti, adesso tutti dire, beh, scontato che Kevin Durant aggiungeva, quando ha firmato quest'estate, ha scelto Golden State, tutti dire, adesso vedremo come reagiranno. No, hanno reagito tutti da campioni, e sottolineo per esempio Klay Thompson, grande tiratore, è quello che come volume di tiri è sceso nettamente di più, e però ha fatto delle cose straordinarie in difesa per dire, io voglio essere un pezzo di una squadra vincente, non faccio il capriccioso che fa quattro tiri in meno a partita. Sì, Simone, alla fine aveva ragione lui, no? A scommettere su questa cosa, su questo cambio. Ma assolutamente, chi vince ha sempre ragione, per cui sicuramente aveva ragione lui. Questa è una squadra, è una collezione di talenti incredibile, ma ha ragione Marco, è una collezione di talenti che ha l'atteggiamento giusto per giocare insieme, non è sempre così scontato. Ricordiamoci, ci sono state delle grandi squadre che sulla carta sembravano potessero ammazzare tutti, come non so, i Lakers di Bryant o magari anche i Lakers del passato con Carmalone e Gary Payton, che sulla carta avevano magari quattro All-Star, però poi da un punto di vista della chimica non sono mai riusciti a trovare l'assemblaggio giusto. Questa è una squadra che non solo ha un grandissimo talento individuale, ma riesce veramente a giocare di squadra, e non è facile quando hai giocatori che, per esempio, giusto che Klay Thompson deve magari sacrificare dei tiri, però riesce a competere comunque a livello spaziale, a livello difensivo, e a darti quel qualcosa in più anche quando gioca male in attacco, ed è qualcosa veramente di abbastanza particolare, ed è per questo che secondo me questa squadra è una delle squadre più forti di sempre, perché veramente ha delle caratteristiche, delle qualità assolutamente straordinarie. Grazie Simone. Grazie a voi. Grazie Simone Sandri. Mi tengo invece Marco Crespi, intanto per dire che LeBron James è sfortunato ad aver incrociato questo squadrone. Sicuramente LeBron James è sfortunato, però penso che LeBron James, che è assolutamente il giocatore più forte di ogni epoca, ha bisogno di sfide, e adesso qualcuno dice non rimarrà a Cleveland, magari va verso Los Angeles o Clippers o Lakers, però ha bisogno di sfide, perché ha vinto la sua sfida a Miami, ha vinto la sua sfida a Cleveland, e adesso sfidare per poter battere chissà dove questa squadra che è forse la più forte, perché gioca veramente di squadra, è una sfida che per una persona con la P maiuscola come LeBron James serve. Sì, sarà una stagione meravigliosa quella che aspettiamo, perché la stiamo già aspettando, così come aspettiamo gara 3 della finale tra Venezia e Trento. Oggi il sospetto è che ieri la serie sia girata anche per le sfortune di Trento. Sì, Stato non ci sarà in gara 3, ho appena parlato con Maurizio Buscaglia che ha detto che c'è una speranza che possa giocare però già da qualche minuto da gara 4, però sicuramente una Trento che è una bella favola, una Trento che vuole sempre essere se stessa, però quando poi i giocatori non sono gli stessi e perde un pezzo, poi è complicato. Sì, sono troppo corti, no? Ieri alla fine si è risolta in questa cosa, cioè tanti di Venezia, o comunque di più di Venezia, contro un manipolo di resistenti. Esatto, per gara 1 forse Venezia ha troppi giocatori e quindi più facile entrare nel clima della finale per due esordienti, per Trento con pochi giocatori, ma in una serie pochi giocatori poi possono diventare pochissimi se Sato non rientra. Trento resta comunque la più bella sorpresa, comunque vada a finire di questa stagione? Ma io penso che siano arrivate a giocare la finale le due squadre con più idee. Trento sicuramente è una bella favola, anche perché emotivamente quando qualcuno perde un pezzo tutti poi si appassionano a chi è in sofferenza, ma credo che anche Venezia abbia giocato una pallacanestro bella, prendo il campo con tanti minuti di small ball in stile Golden State, e quindi sicuramente le due idee più interessanti del nostro campionato sono arrivate in finale. Il che richiama anche alle colpe di chi in finale non c'è, ma tema di cui abbiamo parlato, avremo modo, no, carissimo Marco, di parlarne ancora nel corso dell'estate. E ovviamente parliamo di Milano. C'è chi ti contesta o comunque contesta la definizione di LeBron James come giocatore più forte di ogni epoca. Beh, penso che ovviamente parla di Michael Jordan, quindi. Cioè, io sono cresciuto, diciamo, soprattutto neanche da ragazzo, ma sognando la pallacanestro di Michael Jordan. Però LeBron James ha, rispetto a Michael Jordan, 10 centimetri in più di altezza, di ampiezza di braccia, di capacità di coprire il campo, di fare un salto, e credo che poi alla fine, se fai la stessa qualità di partita con quei 10 centimetri in più, è qualcosa significativo. Grazie Marco. Grazie a te. Grazie Marco Crespi. Intanto vi do una notizia appena battuta: il nuovo allenatore del Nantes, Claudio Ranieri, che ha firmato un contratto di 2 anni, ha accettato la proposta del club francese e ha superato anche tutti i problemi legati all'età. Aveva bisogno di una proroga. Claudio, Cristian e Alessandro. Claudio. Sei pronto? Vai. Ciao. Volevo tornare un attimo all'argomento di Raiola. Sì. E di Donnarumma. Io credo che Raiola abbia gioco facile a convincere un Donnarumma a comportarsi così, perché alla fine tutte le società hanno dimostrato che delle bandiere, quando è finita la carriera, le trattano tutte più o meno allo stesso modo. Basta anche vedere quello che è successo a Totti. Cioè, un giocatore così si merita di decidere lui quando smettere di giocare. E se lo tu vuoi stai dicendo che dirigente... Donnarumma fa bene a 18 anni a sapere che le bandiere non ci sono più? Raiola glielo porta come esempio, dice guarda cosa hanno fatto a Totti. Cioè, anche le società, se non cambiano potere, perché ormai contrattualmente non ne hanno più, devono offrire anche qualcosa. Se tu dai 25 anni del tuo tempo e rinunci, come ha fatto Totti, a dei soldi, io poi ti garantisco qualcosa anche dopo. Sì, però Claudio, credo che Donnarumma a 18 anni questo pensiero sia lontanissimo. È un gioco di rapporti di forza tra il Milan e il suo procuratore. Il bene di Donnarumma sarebbe fare questo benedetto contratto col Milan, stare lì. Se anche se ne dovesse andare, lo dico per paradosso, a parametro zero fra 5 anni, è un portiere di 23. Sarebbe ancora un bambino anche a 23 anni. E avrebbe avuto modo di crescere con calma e soprattutto di poter sbagliare, cosa che, ripeto, ha fatto. E tutti, a partire dai tifosi del Milan, ma anche la critica, lo hanno accolto in maniera benevola. E non penso che da settembre sarà così. Io credo che l'errore stia lì. Poi dopo, Donnarumma, davanti 20 anni almeno di carriera, e ha tutto il tempo per fare anche i ragionamenti, anche giusti, che stavi facendo tu. Cristian da Vicenza. Cristian. Buongiorno e grazie per la convocazione. Grazie a te. Io vado un po' controcorrente e chiedo di blizzare al sì. Milan. A questo punto non converrebbe mollare Donnarumma e investire su questo ragazzo che abbiamo visto proprio recentemente avere io credo che non sia pronto, Cristian. Credo però che non sia pronto. 7 anni come quando sì. Non si pensava fosse pronto Donnarumma. Sì, però, vabbè, era una domanda. Però sono suggestioni, l'abbiamo visto tutti. Bravo, sicuramente è un portiere che si farà, sicuramente è un portiere che avrà un futuro. C'è la suggestione di questi 2 calci di rigore parati nella finale per il terzo posto del Mondiale Under 20, però io mi fermerei lì. Tra l'altro anche Pizzari ovviamente non ha contratto, quindi magari ci troviamo poi fra un anno a discutere dello stesso tema. Alessandro dalla provincia di Napoli. Alessandro. Sì, ciao Giovanni, ciao. Vai. Grazie per la convocazione. Allora, sempre su Donnarumma, io vorrei fare poche considerazioni. Prima, questo ragazzo ha 18 anni e dovrebbe essere aiutato dal procuratore e dalla famiglia. Io a 18 anni non so se ero in grado di prendere decisioni così importanti. E il secondo aspetto è che Raiola la conosciamo, non a caso io sono di Napoli, conosco Hamsik lo ha lasciato Raiola proprio perché Raiola faceva certe forzature. Sì, anche se Mino Raiola fa il suo lavoro. Secondo me il tema non è che Mino Raiola rappresenti il male o il bene. Mino Raiola è il migliore probabilmente e quindi il suo lavoro lo fa bene. Secondo me questa volta ha sbagliato. Secondo me questa volta ha fatto una scelta che alla fine comunque vada a finire penalizza Donnarumma e quindi non gli ha fatto un favore. Poi adesso vediamo come va a finire. Stiamo a Napoli. Boris Sollazzo, ciao. Ciao. Riguardo a Donnarumma dico sempre che quando c'è stato il procuratore della famiglia ci ha pensato alla famiglia, come nel caso di Scuffè è scomparso, quindi siamo tutti bravi a dire ex post qual è la cosa giusta da fare. Forse Raiola, seguendo solo il dio denaro, è quello che perlomeno è meno ipocrita, ecco. Sì, però è anche vero che, siccome tra l'altro parliamo di grandi cifre lo stesso, perché il rinnovo che gli offre il Milan non è un rinnovo da quattro soldi, forse è mancata in questo caso e sta mancando una visione più d'insieme. Tutte le trattative sono complicate, lo è stata anche quella per Insigne e per il suo rinnovo. Però secondo me in quel caso si è tenuto insieme un po' tutto, no? Boris. Posso dire una cattiveria? Sì. Vedrai che rinnoverà con clausola e poi sulla Gazzetta dello Sport, sul Corriere dello Sport, il giorno dopo uscirà una bellissima intervista a tutta pagina di Donnarumma in cui confesserà che non se ne sarebbe mai andato dal Milan e che non poteva andare dal Milan. Però io non penso che i tifosi si sono evoluti, io credo. Non sono così convinto, nel senso che poi alla fine... lo dico da tifoso prima che da giornalista, in certi casi vogliamo credere a quello che più ci piace. Io ho un'adorazione per Dries Mertens, per esempio, che all'inizio di quest'anno disse voglio firmare in bianco e poi ha portato a casa 4,5 milioni di euro, quindi alla fine non possiamo non valutare che sono come le star di Hollywood, ecco, lo dico da critico cinematografico, possono amare un progetto indipendente ma poi comunque i soldi li vogliono. Ah certo, Boris Sollazzo che sta facendo il direttore dell'Ischia Festival fino al 1 luglio, dal 24 giugno al 1 luglio, ci sarà anche un film su Maradona, Maradonapoli, sì. Però il motivo per cui ti abbiamo convocato è sapere se sei d'accordo di togliere dall'armadio la 10 di Diego e consegnarla a Insigne, a proposito di simboli. Guarda, io dirò qualcosa che spaccherà a metà proprio il consesso, non solo credo dei tifosi, ma proprio dei miei amici più cari. Ma sì, io la darei la 10 ad Insigne. E non ne faccio neanche una questione di merito. Il Napoli deve, secondo me, il Napoli deve uscire fuori dal dolore della nostalgia e cercare la dolcezza del futuro. Insigne ha dimostrato che renderebbe onore a quella maglia. Non è importante che sia come Maradona, non ne avremo più nessuno. E l'ha detto anche Totti, andandosene via da Roma, che il sogno della 10 non andrebbe tolto a nessuno. Io ho avuto la fortuna di conoscere Lorenzo e so che è uno dei suoi sogni, so che questo lo motiverebbe. So che qualche anno fa Tevez, prima di andare alla Juventus, stava per arrivare a Napoli e che leggenda vuole che avesse rinunciato a 1 milione di euro all'anno pur per avere la 10. Quindi è un sogno, siccome questo calcio è povero di sogni, vedere Insigne con la 10 a me ha emozionato con la nazionale e credo che mi emozionerebbe ancora di più con il Napoli, però secondo me lo può fare solo Maradona, nel senso che siccome in qualche modo è il monarca del nostro cuore, Diego Armando, deve essere generoso e dire sì, spero che la 10 possa... Io credo, Boris, che dovrebbe farlo il Napoli per conto suo. Lo so, però io credo che questo... Ma proprio per uscire da questa cosa. Però altrimenti sarebbe una pressione anche eccessiva per il napoletano Insigne. Io credo che questo passaggio sentimentale, Napoli è una città sentimentale, ci dovrebbe essere. Poi sono d'accordo con te, se ragionare freddamente da giornalista, ma anche da tifoso, la 10 deve andare ad Insigne assolutamente, perché se la merita, perché ha dimostrato di essere degno di quel numero, perché a mio parere io non vedevo un giocatore così forte in Italia dai tempi di Roberto Baggio, proprio forte tecnicamente, con quelle idee tattiche e tecniche. Quindi assolutamente se lo meriterebbe. Credo che, siccome è un po' un romanzo, se ci fosse anche la parola di Maradona, investirlo in qualche modo sarebbe più leggero come passaggio, perché poi uno come Diego Armando comunque è un ricordo ingombrante e il Napoli deve guardare al futuro, non può più macerarsi nella nostalgia. Sì, non sempre ci prende, Maradona. Ricordo le parole su Sarri sprezzanti e poi se le è dovute rimangiare. e per fortuna perché poi decide il campo. E beh, insomma, ci manca. No, però se l'è rimangiata. Tanti altri che hanno detto cose ben peggiori non se le sono rimangiate, insomma. Poi questi grandi calciatori non sempre sono molto lucidi. Io adesso non approvo tutto ciò che si dice su Dybala, no? Io credo che si stia dando troppa pressione a questo giocatore, ma credo che sia un giocatore straordinario. Non è il pallone d'oro che tutti immaginavano, non è neanche però il giocatore scarso che dice Pelé, per esempio. A volte, secondo me, c'è un po' di gelosia. Si invecchia, ci si ricorda di essere stati più grandi e che adesso ovviamente non lo si è più. E probabilmente magari cerchi di esagerare, come facevi con il tacco, con la rovesciata in campo, cerchi di esagerare con le parole. Quindi diciamo che i grandi campioni forse non li dovremmo ascoltare troppo sul presente, dovrebbero rimanere nel passato. Esatto, dovremmo restare alle immagini in bianco e nero. Grazie Boris. Grazie a voi, a presto. Grazie Boris Sollazzo. Marco da Milano, Marco. Sì, ciao, buongiorno a tutti. Dai. Due brevi cose. Innanzitutto, la prima, Insigne merita il numero 10 perché insomma è un gran giocatore, quindi è giusto dare merito a quello che sta facendo. E la seconda è su Buffon. A me dispiace però idolatriare sempre questo Buffon quando poi anche lui scende a fare dei gesti che sinceramente mi riferisco allo striscione del 5 maggio quando non c'era, sì. Però perdonami Marco, stava festeggiando un suo scudetto. Tra l'altro, il 5 maggio ha vinto uno scudetto. Ma a maggior ragione, che bisogno ma lui ti potrebbe rispondere, ma lo interpreto io. Il 5 maggio gode ancora e ha vinto uno scudetto, e lo ricorda e ci gode. Io credo che, veramente, credo che io l'ho criticato prima. Secondo me sbaglia a dare dei miserabili a quelli che festeggiano per la sconfitta della Juventus a Cardiff. Ma il paragone con quell'immagine lì, io credo che non c'entri nulla e sia sbagliata. Però abbiamo tempo per parlarne anche domani. Ci aggiorniamo domani dopo il GR delle 14. Adesso invece, Falco e Gabbiano con Enrico Ruggeri, parliamo di un grande personaggio del calcio e dello sport. Davide Nicola, la salvezza del Crotone e la sua vicenda personale. A domani. Abbiamo visto abbastanza. Ciao a tutti. Saluti.